Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi e benvenuti. Grazie per essere con noi. Sono le 11.08, c'è Peter Bescapé in regia, la parte tecnica. Laura Vanossi come sempre in redazione. Andiamo a sentire insieme i titoli del nostro sommario. Quando il diabete entra nella vita di un bambino e lo accompagna negli anni. Ti sei lavato le orecchie? Dici come. Gli amici siamo noi. Parliamo di diabete oggi, una vera e propria epidemia, al punto che l'ONU, in una risoluzione sottoscritta all'unanimità da tutti gli stati membri, ha dichiarato la malattia un'autentica emergenza sanitaria planetaria. Alcuni dati però ci aiutano a entrare meglio nel problema. Sentiamo la nostra scheda. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, nel 2000 erano oltre 170 milioni le persone nel mondo colpite dal diabete. Nel 2008 si stima vi siano 247 milioni di persone con diabete e si prevede che nel 2030 si arriverà a superare i 360 milioni. La maggior parte delle persone affette da diabete ha la forma cosiddetta di tipo 2, che prevalentemente colpisce persone sopra i 40 anni, obesi, sedentari. Circa il 5-10% invece ha la forma detta di tipo 1. Questa forma, come anche il diabete di tipo 2, è in costante e progressivo aumento, fin dai primi mesi dopo la nascita. Si stima che 4 nuovi casi di diabete di tipo 1 vengono diagnosticati ogni giorno solo in Italia. Per chi ha il diabete si prospetta un'esistenza caratterizzata da numerosi vincoli. Si deve monitorare la glicemia tutti i giorni 3, 4, 5 volte e spesso anche di più, iniettarsi più volte al giorno insulina e seguire uno stile di vita organizzato in base a regole precise. E di diabete di tipo 1 parleremo oggi insieme a tanti esperti che faranno il punto sulle terapie attualmente a disposizione e sulle prospettive future. Ma qui in studio con me, a lui voglio dare la precedenza perché è proprio il nostro ospite d'onore, c'è Giacomo, ha 12 anni. Ciao Giacomo. Buongiorno. Allora Giacomo ha... io ero quasi contenta perché dico Giacomo viene per un giorno di scuola. In realtà ti hanno fatto andare 2 ore a scuola. Ah, certo. Però finita la trasmissione puoi andare a casa perché non si può più rientrare a scuola. Per fortuna. Senti Giacomo, tu vivi da 5 anni insieme al signor Diabete. Sì, sì, 5 anni. Com'è? Il signor Diabete è un signore che mi permette di avere una marcia in più, che non devo assolutamente sottovalutare. E tu come fai a non sottovalutarlo? Nel senso che ne parli anche con gli altri bambini? Come lo vivi? Certe volte ne parlo per farli capire che cosa io, qual è il mio problema. E loro, anche se mi sentono diverso, mi accettano. Senti Giacomo, ma se tu dovessi raccontare anche a noi come vivi la tua malattia, tu mi dici i miei amici mi sentono diverso ma mi accettano. Giacomo è un bellissimo bambino, fa un sacco di cose, mi raccontava prima di andare in onda che sabato sarai su un ghiacciaio, vero? Sì. Ha un fratello e ha una faccia quella che da noi diciamo proprio da teppa, per cui insomma ha quella faccia da angelo che sai che te ne combinano sempre 2 o 3 contemporaneamente. Cosa racconti ai tuoi amici quando dici che sei diabetico? Che ci sono molte cose da controllare, tipo la glicemia appunto, il livello di zuccheri nel sangue, la percentuale, che può essere, se troppo alta, si rischia di avere dei problemi ai reni, invece se è troppo bassa questi reni non filtrano più e si rompono, bisogna stare in equilibrio. Sì, esatto. E tu riesci a farlo bene però? Io sì, è una buona media. Sì. Senti Giacomo, possiamo salutare anche gli ospiti che abbiamo in linea con noi, anche se Giacomo naturalmente rimane con noi sino a mezzogiorno, ci racconterà, interverrà, se i medici non parlano in modo chiaro, dicono delle cose non precise, ecco, mi raccomando, Giacomo è con me in conduzione per cui farà le domande. In linea con noi abbiamo la professoressa Renata Lorini, direttore della clinica pediatrica presso l'Istituto Gianna Gaslini di Genova e presidente della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. Professoressa, buongiorno. Buongiorno a tutti. E bentornata. Buongiorno a lei. Qui Grazie. In studio con me invece ho il dottor Andrea Scaramuzza, che è responsabile del servizio di diabetologia della clinica pediatrica dell'Università di Milano presso l'Ospedale Sacco. Buongiorno. Allora, diabete mellito di tipo 1, insulino dipendente. Noi stiamo parlando della stessa malattia, anche se utilizziamo dei nomi diversi. Parliamo quindi di questa forma di diabete che una volta veniva chiamata comunemente diabete giovanile, quindi una forma distinta rispetto a quella più comune del diabete di tipo 2. Ma ci aiutate a capire la differenza tra queste due forme di diabete? Non è solo l'insorgenza, l'età di insorgenza che fa la differenza, dottor Scaramuzza? No, sicuramente l'età è un grande discriminante. Prevalentemente, come è stato detto anche nella scheda, i pazienti con diabete di tipo 2 hanno un'età che va dai 40 anni in su, mentre il diabete di tipo 1 è più prevalentemente a carico dei bambini, anche molto piccoli, anche di pochi mesi, con picchi verso l'età di ingresso nella scuola, quindi 6-8 anni, e poi un altro picco intorno all'età dell'adolescenza. Sì. Ma sono proprio due malattie diverse. Mentre nel diabete di tipo 1 vi è una distruzione pressoché totale delle cellule, quindi di quella parte del nostro organismo che produce l'insulina, ormone fondamentale per il metabolismo del glucosio e causa del diabete, e quindi questi pazienti necessitano di iniettare l'insulina diverse volte al giorno, nel diabete di tipo 2 a volte è semplicemente una ridotta funzionalità dell'insulina, e quindi sono sufficienti dei farmaci, i cosiddetti ipoglicemizzanti orali, o anche semplicemente delle norme di vita più salutare, quindi maggiore certo. movimento, un'alimentazione corretta. E quindi sono due malattie completamente diverse. Diverse, diabete 1, diabete 2. Noi stiamo sul diabete di tipo 1, professoressa Lorini, il dottor Scaramuzza l'ha già accennato, può manifestarsi nei primi anni di vita del bambino, ma può insorgere anche nell'adolescenza. Ci sono dei sintomi che non vanno trascurati, li ricordiamo perché conoscerli può aiutare i genitori in ascolto e quindi invitarli nel caso si presentassero a consultare il medico. Possiamo ricordarli, professoressa? Sicuramente. Dico anche che proprio come Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica noi abbiamo fatto il 23 settembre una giornata nazionale sul diabete e abbiamo distribuito un poster proprio per una campagna per la diagnosi precoce del diabete nel bambino. Allora, ci aiuti con i sintomi, professoressa esatto. Lorini? Allora, che il bambino se beve e urina più del solito deve essere questa manifestazione un campanello d'allarme. Cioè un bambino che eventualmente già aveva un controllo degli sfinteri, sappiamo sì. che i bambini nei primi due anni portano il pannolone, certo. la mamma nota che deve cambiare più frequentemente il pannolone, che il letto trova il letto bagnato, quindi vuol dire che il bambino urina di più. Mm. Allora questo è un campanello d'allarme. È importante accertare se il glucosio è più alto, se c'è zucchero nelle urine, è importante che la mamma consulti subito il suo pediatra. In Italia abbiamo per fortuna i pediatri di famiglia, unica nazione al mondo, e questa è la figura di riferimento. Quindi questi sono i sintomi sospetti, sete eccessiva e urinare spesso in abbondanza. Giacomo, tu vivi con il diabete da 5 anni, quindi adesso hai 12 anni, a 7 anni, no? Hai scoperto di essere sì. diabetico. Come avevi dei sintomi? Esattamente, quelli che ci ha ricordato la professoressa Lorini. Bevevo moltissimo e andavo spesso in bagno. E la tua mamma ha detto qualcosa non va? No, in realtà se n'è accorto il padre di un mio amico, sì. che è un chirurgo plastico, sì. e che mi ha spedito subito in ospedale. E di lì ti hanno fatto la diagnosi. Esatto. 800-24-00-24. Restate con noi, continueremo a parlare di diabete di tipo 1, di terapie, di ricerca. Però oggi, se mi aiutate, io vorrei dare voce ai genitori dei bambini e dei ragazzi diabetici per entrare un po' nelle loro famiglie, nelle loro storie. Perché credo che aiutare un figlio a vivere con una malattia cronica sia una sfida. Lo si deve sostenere, però senza dimenticarsi che poi lo si deve aiutare a diventare autonomo. E i passaggi di questo percorso non sono sempre in discesa. Ci aiuteranno naturalmente gli esperti, ci aiuterà Giacomo che ci racconterà da vicino, dal di dentro, la sua storia, e ci aiuterete voi con le vostre domande, se qualche cosa non vi torna, se nei sintomi che la professoressa Lorini ha descritto trovate qualche cosa di familiare, qualche cosa che vi ricorda un momento preciso del vostro bambino. 824 0024, messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno.

Attualmente abbiamo delle insuline perfette, nel senso che sono insuline che agiscono molto bene e che hanno una durata d'azione variabile che noi possiamo quindi utilizzare per il singolo paziente. Riusciamo a stabilire e programmare la somministrazione dell'insulina, il tipo di insulina, proprio a secondo del paziente. Questa sì. È una cosa importantissima. Quindi personalizzata. Personalizzata, perché il nostro organismo produce l'insulina in funzione di quello che noi introduciamo direttamente. Sì. Quindi noi dobbiamo cercare di imitare quello che il nostro organismo fa e queste insuline ce lo permettono. Innanzitutto noi possiamo somministrare queste insuline con delle agopenne, dei stilo iniettori, mentre un tempo usavamo le siringhe di vetro, i bambini veramente possono somministrarsi l'insulina, quasi non se ne accorgono. Sì. E con degli aghini diversi a secondo se un bambino di un anno, di 4 anni, quindi che ha una cute diversa, sì, per cercare di renderlo il più indolore possibile. Seconda cosa, abbiamo la possibilità di valutare la glicemia con delle metodiche anche qua sempre più raffinate e addirittura adesso c'è una metodica, un apparecchietto indolore e questo è importante perché il bambino durante il giorno deve controllare più volte la glicemia e la cute è diversa nel lattante, nel bambino e nell'adolescente, quindi questo è importante. Deve tenere conto anche dei cambiamenti del bambino nel corso, certo, che cresce. Certo. E siccome è importante che il bambino si controlli più volte al giorno la glicemia, avere questi apparecchietti che non sono dolorosi, che permettono di controllare il valore del glucosio nel sangue, è importante perché in base a quello si modifica la dose di insulina. Quindi conoscete di più, avete più strumenti a disposizione per tenerlo sotto controllo e per aiutare il nostro organismo a fare quello che da solo non riesce. Giacomo, tu come gestisci la tua glicemia nell'arco della giornata? Cosa fai? Allora, io adopero un microinfusore che mi inietta insulina costantemente, piccole dosi, che mi aiuta a mantenere costante una buona glicemia. Io ho il microinfusore da 2 anni, sì, 2 o 3 anni. Prima avevo le siringhe. Le siringhe non ti permettono di avere una glicemia costante, ma se le siringhe dopo pranzo hai dei picchi, sì, puoi avere dei picchi. Con le siringhe puoi anche imitare il microinfusore facendo un altro tipo di insulina alla mattina, sì, chiamata lenta, perché agisce in quasi tutto l'arco della giornata, un po' riesce a mantenere la glicemia costante. Noi adesso, io mi sto rendendo conto veramente, io sono allibita, ma il dottor Scaramuzza qua davanti a me, capisco che, cioè, ci rendiamo conto che Giacomo ne sa quanto un medico? Cioè, di quanto è stato informato, educato, è giusto, assolutamente. Io trovo che questo sia magnifico. Ma il professor Joslin, che è sicuramente uno dei pionieri della diabetologia, è quello che ha insegnato un po' a tutti i diabetologi ad essere diabetologi, diceva che il paziente con diabete è il miglior medico di se stesso, perché non c'è miglior medico di chi si conosce bene e che conosce le reazioni del proprio organismo alle varie terapie. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di diabete di tipo 1, però prima vorrei aprire una finestra per leggervi una notizia che compare sui giornali, su Repubblica. Il titolo è: aveva l'AIDS, guarisce salvato da una mutazione genetica. Succede a Berlino, pare per la prima volta, un paziente malato di AIDS insieme di leucemia, grazie a una cura, prima di chemio, poi di massiccio trapianto di midollo osseo, è tornato sieronegativo, e questo è da 600 giorni circa. Ma va subito precisato che il midollo innestato nel ricevente appartiene a un donatore che ha una mutazione genetica che lo rende quasi immune al virus HIV. In linea con noi abbiamo il professor Adriano Lazzarin. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Docente di malattie infettive all'Università Vita Salute San Raffaele, primario del reparto di malattie infettive sempre a San Raffaele. Professore, abbiamo poco tempo e l'argomento è complesso, ma io vorrei che lei ci aiutasse a leggere questa notizia da due prospettive. Quella per la ricerca, che cosa rappresenta questo per i ricercatori, se è un passo avanti e verso quale direzione porterà gli studi, e anche come può essere letta da una persona che è sieropositivo, non ancora l'AIDS, ma si è positivizzata all'HIV. Professore. Beh, sicuramente la notizia andava sottolineata, come i media stanno facendo, perché è di grande importanza scientifica. È una dimostrazione molto pratica e lineare che il gene per il recettore CCR5, quando non è perfetto, e in questo caso c'è una delezione di 32 basi, non è in grado di venire infettato da HIV, quindi sì. È una protezione naturale nei confronti di questo tipo di infezione. Ora, l'occasione, che è stato un trapianto di midollo fatto per altra patologia, che era il linfoma, con linfociti con queste caratteristiche, ha dimostrato in modo chiaro che il linfocita difettivo che era stato introdotto nel trapianto di midollo è stato quello che ha consentito al paziente di venire protetto appunto dall'infezione. Certo, quindi è sicuramente un passo avanti, e questo linfocita è in grado di attivare delle difese nei confronti dell'HIV, perché io devo sempre un po' immaginarmi, quando voi parlate di linfociti eccetera, ognuno, che noi che non siamo addetti ai lavori, ci visualizziamo qualche cosa, quindi come potremmo visualizzarcelo, professor Lazzarin? Io me lo vedo con un... Ci sono dei farmaci oggi entrati in commercio che hanno lo stesso meccanismo d'azione, vanno a modificare per via farmacologica il recettore. Il linfocita ha un recettore sulla superficie attraverso il quale il virus entra nella cellula. Se questo recettore non funziona, il linfocita nella cellula non entra. Fantastico. Il recettore dei linfociti che sono stati trapiantati al ricevente provengono da un donatore che ha geneticamente questo difetto. Sì, questo difetto, che è un buon difetto. Professor Lazzarin, grazie per essere stato con noi. Buona giornata, noi torniamo a parlare di diabete di tipo 1. Domani, professore, è la giornata mondiale, ma lei grazie lo sa. Grazie, buona giornata. Andrei alle telefonate. Abbiamo Sandra da Roma. Buongiorno Sandra. Buongiorno. Allora io volevo fare questa domanda alla dottoressa. Ho un bimbo di 3 anni e mezzo che beve moltissimo e urina di conseguenza. Sono abbastanza tranquilla perché anche io in famiglia beviamo abbastanza e per fortuna non c'è familiarità con il diabete. Però vorrei comunque stare tranquilla, per cui vi chiedo se c'è un esame specifico che però non sia traumatico, come può essere un prelievo di sangue, per sapere se c'è una patologia diabetica in corso. Grazie. Grazie a lei Sandra per questa domanda, che permetterà alla professoressa Lorini di dare tante indicazioni importanti ai genitori in ascolto. Professoressa. Allora, senza fare il prelievo di sangue, ma è sufficiente sull'esame dell'urina fare un esame e vedere se c'è presenza anche in piccole quantità di glucosio, perché questo vuol dire che il bambino urina tanto perché c'è più glucosio anche nel sangue, perché il rene fino a un certo punto riesce a far da barriera, ma se la glicemia aumenta lascia passare del glucosio e lo troviamo nell'urina. Quindi è fondamentale fare l'esame dell'urina. Le direi, ma quanto beve il bambino? La mamma è ancora in ascolto e ha messo... Sì, signora, quanto beve il suo bambino? Beve tanto quanto? Non risponde più. Ecco, quanto deve... Allora, dicecelo voi, quanto può bere un bambino? È giusto che beva, professoressa Lorini? Ecco, litro, un litro e mezzo. Un bambino di 3 anni, quanto deve bere? Sicuramente un litro almeno deve berlo, senza considerare che è legato anche al tipo di attività che il bambino fa. Sì. E non direi più neanche la stagione, perché adesso se accendiamo i termosifoni, certo, c'è il riscaldamento, l'ambiente è secco, il bambino deve bere, è bene che il bambino beva. Ma le dirò che bisogna fare attenzione a come anche il bambino chiede l'acqua, e non solo il bambino, segnalo persino i bambini di 8-9 mesi. Io ho ricoverato un bambino di un anno in cui abbiamo fatto diagnosi di diabete, ma perché la mamma ha notato, la allattava al seno, che il bambino, e naturalmente le dava però anche del biberon, dell'acqua, non solo il suo latte, con la manina voleva il biberon e lui beveva tanta acqua. E la mamma, e poi ha notato che beveva e bagnava di più il pannolino. Allora l'ha portato dal pediatra. Quindi attenzione anche a questi anche quando sono molto banali del bambino piccolo. E il bambino piccolo è il bambino più a rischio di disidratazione e di rischiare la chetoacidosi con diabete. Giacomo, ci si stanno raccontando tante cose su questo diabete di tipo 1. Sì. Mi arrivano dei messaggi che dicono: ma come si vive un bambino che deve muoversi, giocare, andare a scuola? Non ti hanno fatto saltare neanche una giornata intera, mannaggia. Ecco, ci sono delle cose che tu non puoi fare o devi fare con particolare cautela di quel tipo, no? Sai, quando le mamme, adesso non lo dicono più le mamme, ma dicevano un tempo: vai giù a giocare, ma non correre troppo, che però se no poi sudi e ti ammali. Giacomo, ci sono delle cose che non puoi fare? Avendo il microinfusore non ho problemi con l'attività, con lo sport, perché questo microinfusore si può staccare dal corpo, sì, e sospendere, e quindi poi, finita l'attività, sì, me lo rimetto e faccio un po' di insulina che compensa il vuoto di insulina che l'attività fisica mi ha prodotto. Allora, noi qua abbiamo il nostro Giacomo, qua è la star di oggi, ma noi abbiamo un altro Giacomo in linea, è un Giacomo più grande e molto famoso, si chiama Giacomo Poretti, è del famoso trio Aldo, Giovanni, Giacomo. Ciao Giacomo. Ciao, buongiorno a tutti. Ed è qui Giacomo perché domani farà una magia, ma voglio, molto probabilmente i due Giacomi si incontreranno. Giacomo, raccontaci tu. Allora, io intanto non so se sono più grande del Giacomo lì in studio, però... Beh, forse quasi, insomma, per un pelo lo superi ancora, ma il prossimo anno già ti mangia in testa. In genere quando vanno in terza elementare mi hanno già superato, però vabbè. Comunque, domani dovremmo, io e i miei soci, con altre persone, accendere di blu il Duomo di Milano, perché abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa, la giornata mondiale diciamo contro il diabete, e sì, saremo lì in Piazza Duomo a dare la nostra testimonianza. E tra l'altro il Giacomo piccolo, quello piccolo per ancora per poco, dicevo, mi ha detto: sì, io l'ho incontrato anche in montagna, mi piace molto, per cui era molto contento che tu fossi in linea. Domani vi cercherete tra la folla. Se ho 30 secondi, sì, posso raccontare un aneddoto secondo me molto significativo. Sì. Quest'estate ci siamo incontrati, io e mia moglie, volevamo affrontare una salita abbastanza ripida, un dislivello del 30% cose per atleti veri. Sì. Partiamo e c'era un nuvolo di ragazzini vocianti e fastidiosi che noi abbiamo superato. Abbiamo detto: vabbè, adesso arriveremo su in salita e poi vedremo. Man mano che la salita si faceva ripida, questi ragazzini ci superavano giocando a Game Boy, chiacchierando, noi col fiatone, no? Alla fine siamo arrivati in cima e sentivamo che si misuravano la glicemia e si riferivano al dottor Scaramuzza che li accompagnava, dice: ma io ho il valore alto e tu fatti la glicemia, io ce l'ho e mangiati una merendina, insomma. Senti, ci hanno superato praticamente tutti. No? Siamo arrivati ultimi ed eravamo stremati e ci hanno preso in cura anche a me e mia moglie. Non hanno potuto neanche chiederti un autografo perché eri distrutto, esatto. Non si poteva infierire. No, ma questo lo racconto perché, voglio dire, se c'è qualcuno che ancora pensa che il diabete è sicuramente una malattia seria, ma non è assolutamente invalidante, si possono fare un sacco di cose, anche salire in montagna e fare sport, ci sono degli atleti, il dottore lo può dire meglio di me, che hanno questa malattia eppure hanno una vita comunque interessante e gioiosa, vero? Assolutamente sì. Grazie. Grazie, grazie davvero a Giacomo, sei sempre magnifico. Grazie, per me è sempre un piacere averti in onda. Giacomo, vuoi salutare il tuo Giacomo? L'altro Giacomo che vi incontrate del diretto domani? Ci vediamo domani al Duomo, eh. Ciao Giacomino, a domani. Va bene, ciao allora. Ciao. Ed eccoci tornati insieme, in linea con noi abbiamo la professoressa Renata Lorini, qua in studio il dottor Andrea Scaramuzza, Giacomo. E a proposito della luce blu, perché la luce blu è non solo il Duomo ma tanti altri monumenti? Ci sono tantissime iniziative, tra l'altro vi rimando proprio al sito anche di diabeteitalia.it dove potete anche trovare l'indirizzo delle piazze in cui si svolgeranno numerose manifestazioni. Sabato e domenica si potrà fare il controllo della glicemia con un piccolo prelievo. Dottor Scaramuzza. Assolutamente sì, velocissimo, alla fine del 2006 le Nazioni Unite hanno votato in maniera congiunta una risoluzione che dichiarava il 14 novembre giornata mondiale del diabete. Il blu è stato scelto perché è il colore del cielo, il colore della speranza e quindi ovviamente la possibilità di una cura definitiva, perché tutto ciò di cui abbiamo parlato oggi è una buona cura ma non toglie il diabete. E quindi nel mondo parecchi monumenti si illumineranno di blu, non solo il Duomo di Milano, e anche in Italia ci sono circa 50 città che aderiscono e si illumineranno: il Maschio Angioino a Napoli, Castel Sant'Angelo a Roma, la Torre di Pisa, Ponte Vecchio e tanti altri che a non Genova, ricordo. A Genova, professoressa Lorini, cosa Dunque, succederà? A Genova l'anno scorso abbiamo illuminato di blu il Palazzo Ducale. Sì. Speravamo la lanterna, ma per problemi di sicurezza dell'aeroporto sì. Non ce l'hanno concesso. No. Comunque volevo aggiungere sì? anche che l'Italia l'anno scorso è stata la nazione con più monumenti illuminati in blu al mondo. Siamo i migliori. E anche siamo vicini, perché c'è già, come diceva il dottor Scaramuzza, circa 50 città, nel senso che hanno monumenti artistici. L'Italia è il paese più ricco di monumenti artistici. Sì, certo. Siamo, anche siamo i migliori, ahimè. Esatto. Senta, professoressa Lorini, quindi 50 città, 500 piazze, ricordo. C'è anche un numero verde che voglio darvi, 800 99 33 31, oppure c'è sempre il sito che vi ho già dato prima, diabeteitalia.it. Tra poco parleremo di ricerca, ma abbiamo Gianni da Roma e Lucia da Prato. Gianni, buongiorno, benvenuto sinteticamente alla sua domanda. Sì, grazie, buongiorno. Io ho tre figli, di cui una bimba di 5 anni che ha il diabete da 2 anni e in più è anche celiaca da 3 sì. anni, per cui insomma è un aggravante questo. Sì. Volevo sapere sinteticamente se quanto c'è di vero nel fatto che nella ricerca si dice 4, 5, 6 anni, 8 anni il diabete possa essere definitivamente sconfitto, allora, quanto ci direi e quanto no. Sì, allora la ricerca continua, ne parleremo tra poco con il professor Guidotti, ma un'anticipazione il dottor Scaramuzza può dargliela. Insomma, sicuramente la ricerca sta facendo tanto, ha fatto tanto, come è emerso dalla chiacchierata finora sono migliorate tantissimo le insuline che ora si utilizzano, gli strumenti per somministrarle. Ovviamente tutti vorremmo sentir dire la parola fine, quindi trovare una soluzione che permetta di sconfiggere il diabete, e non so dirle quanto siamo vicini, dare delle false illusioni è sempre sbagliato. Io sono però convinto che prima o poi ci arriveremo. Lucia da Prato, buongiorno. Buongiorno. Volevo porre una domanda. Volentieri. Vorrei sapere che se somministrare pochissimi zuccheri a bambini della prima infanzia, partendo dai 2 anni, e specialmente nella prima mattinata, sì. se è possibile avere delle alterazioni pancreatiche. Dottor Scaramuzza? No, quindi un'alimentazione equilibrata prevede il 50-55% di apporto come carboidrati, e di questi una piccola parte possono essere anche zuccheri semplici, per cui usati con moderazione, intendo gli zuccheri semplici, torte e quant'altro, non hanno influenze negative sull'eventuale sviluppo di diabete. Rispondiamo ad un SMS che traduce, un po' riassume qualche dubbio degli ascoltatori che mi hanno inviato sotto altre forme. Mio padre ha un diabete di tipo 2, mio figlio di 8 mesi ha più probabilità di sviluppare un diabete di tipo 1 rispetto agli altri bambini? Professoressa Lorini? No, assolutamente. Direi che se il nonno quindi ha il diabete di tipo 2, c'è una familiarità, sarà bene che questo bambino sia alimentato in modo corretto, che faccia attività fisica, ottima qualità di vita, sì, evitare che diventi obeso, perché certo, allora aumenta la sua possibilità, se c'è familiarità di diabete tipo 2, di sviluppare in età adolescenziale o giovane adulto diabete tipo 2. E adesso passiamo alla ricerca. In linea con noi abbiamo il professor Luca Guidotti, ci ha raggiunto, direttore dell'Istituto di Ricerca sul Diabete del San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, abbiamo raccontato e parlato insieme a Giacomo di diabete di tipo 1, i nostri esperti, la professoressa Lorini e il dottor Scaramuzza. Molti ascoltatori però mi stanno scrivendo: ma allora dal diabete di tipo 1 non si guarisce? Giacomo si dovrà controllare tutta la vita? Questi sono molti sms di soprattutto donne che ci hanno scritto. Professore, se io le rivolgessi questa domanda, lei da ricercatore che cosa potrebbe rispondere? Si guarirà mai, si metterà mai questa parola fine, come chiedeva un ascoltatore pochi minuti fa? A dire di sì a una domanda del genere comporta una possibilità di prevedere un futuro difficilmente prevedibile. Quello che possiamo però dire con certezza è che negli ultimi 15-20 anni grandi passi avanti si sono fatti nel capire e nel controllare questa malattia, e dobbiamo essere fiduciosi che con le stesse attività di ricerca nei prossimi 10-15 anni si riuscirà magari anche a guarirla una volta per tutte, cosa che per ora non è possibile, ma che solo attraverso la ricerca noi possiamo cercare di ottenere. Già i risultati della ricerca ci permettono di avere un controllo della glicemia eccellente, tanto che Giacomo può fare una vita assolutamente normale. Questo è già un risultato della ricerca. La ricerca ha prodotto, no, questi risultati. Sì. Professore, si potrà un domani prevenire il diabete di tipo 1 come si previene il diabete di tipo 2? O sto dicendo una bestialità? No, non sto assolutamente dicendo una bestialità. È molta ricerca sia in Italia che in Europa e nel mondo è proprio correlata alla prevenzione del diabete. La prevenzione del diabete tipo 1 è quindi un grande obiettivo della ricerca. Il presupposto della prevenzione innanzitutto è l'identificazione dei soggetti a rischio in una fase che precede la comparsa clinica della malattia. La possibilità di realizzare un'accurata predizione del diabete di tipo 1 rappresenta anche questo un traguardo conseguito dalla ricerca negli ultimi 15 anni, per cui oggi è possibile attraverso un semplice test di screening basato sulla misurazione di alcuni anticorpi identificare le persone, per lo più bambini e adolescenti, a rischio di sviluppare il diabete di tipo 1. Professore, io la saluto, la ringrazio. Abbiamo chiuso con la ricerca proprio con uno sguardo verso il futuro, un futuro vicino. Al nostro futuro è Giacomo, che speriamo, che illuminerà di blu il Duomo di Milano insieme ad Aldo, Giovanni e Giacomo e a tanti bambini, tanti ragazzi. E non so, Giacomo mi piace molto. Andrea Scaramuzza, grazie. Dottor Scaramuzza, grazie per essere stato con noi, e anche la professoressa Lorini. Io sto sforando, buona giornata. Noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 11. Essere e benessere.